canto ed accogli ogni giorno pianto e lo trasformi in frumento, in acqua per innaffiare il mondo. Donna che illumini il lago in superficie, in ogni suo lato, nei più profondi abissi del cielo, nel più clamoroso miracolo umano. Sprigiona vita al tuo seno ed accompagni la strada del tuo uomo. Non ti accontenti di restare al palo, vai oltre il tramonto, oltre il muro, oltre la strada del perdono, oltre i confini dello stesso uomo. E non ti pieghi sotto i raggi del sole, vai sempre avanti, oltre ogni fiume, con la tua grinta a difendere sogni, quelli che fanno attraversare ponti, quelli che danno alle tue mani la forza di affrontare il domani, quelle che riempiono il tuo cuore e cicatrizzano ogni dolore. Donna camaleonte, che ti trasformi sotto la pioggia battente, tutti i tuoi volti per una strada splendente, infinita bambina, donna del sempre. Donna che li accompagni a scuola, i tuoi ricordi pieni di storia, i tuoi aneddoti birichini, quelli che tieni nei comodini della tua segreta memoria, che con astuzia vanno in barca a vela, quelli che ti fanno ridere a crepapelle, perché che ride un piede tra le stelle, in un rossetto con i tacchi a spillo, affronti il mondo e lo fai più bello, al collo lucciole di perle e corallo, e il corpo fumo superi ogni scoglio. Non ti fermi davanti a nessuno, tracci il destino più veloce di un treno, accogli i fiori perché ti sono fratelli, accogli l'alba con i tuoi occhi belli, e a chi ti chiede tu rispondi parole che costruiscono il più grande amore, quello che resta nel tempo dei tempi, quello che inonda ogni giorno i tuoi campi. Donna camaleonte, che ti trasformi sotto la pioggia battente, tutti i tuoi volti per una strada splendente, infinita bambina, donna del sempre.